5B. Ascolta e trasforma. Studierebbe, ma è stanca. Studierebbero, ma sono stanche. Si riposerebbe, ma non ha tempo. Si riposerebbero, ma non hanno tempo. Lavorerebbe, ma ha l'influenza. Lavorerebbero, ma hanno l'influenza. Tornerebbe in treno, ma ha troppi bagagli. Tornerebbero in treno, ma hanno troppi bagagli. Pagherebbe lui il conto, ma non ha il portafoglio. Pagherebbero loro il conto, ma non hanno il portafoglio. Aspetterebbe ancora, ma ha un appuntamento. Aspetterebbero ancora, ma hanno un appuntamento.